Trafitte della 10 e 3 minuti. Buongiorno a tutti. Ciao Fergal, hi. Good morning Fabio, how are you? Fine. Insomma, c'è il fiore del mattino di fronte a noi, regia, anche quest'oggi per un nuovo appuntamento con Bascia in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Le cameretti a Canfora. Arredamento specializzato per ragazzi. Present. Radio Tour, the moving station. Present. This is in tour. Baci in Tour. Confermo che Baci in Tour è un programma in collaborazione con le camerette a Canfora, arredamento specializzato per ragazzi, che trovate anche sulle pagine gialle e sulle pagine utili. L'ho messo troppo in alto anche per me il microfono. Sto parlando. Non ci ho fatto caso. Vabbè, adesso dopo. Comunque fa bene guardare il cielo, no? Sì, se si vedesse, solo che da qua dentro il cielo non si vede. Cioè, io sono sempre convinto del fatto che dovrebbero fare gli studi radiofonici, soprattutto nelle radio che trasmettono dalla città di Napoli o comunque dalle città di mare, con una bella, solo che poi ci sono, insomma, con una bella finestra che affaccia appunto sul mare, solo che poi ci sarebbero probabilmente problemi per l'insonorizzazione. E questo sì, però se tu pensi che qua fuori c'è proprio il porto di Napoli, come saremmo ispirati a parlare con il nostro ascoltatore se ci fosse questa vista? Hai capito? E invece non c'è, purtroppo ogni tanto dobbiamo fare un saltino dall'altra parte del vetro a rompere le scatole a fiore per affacciarci la finestra e guardare il mare e respirarne l'aria. Baci in Tour anche quest'oggi fino alle 13, siamo in due come avrete sentito, Fabio Fergal e Fiore, ci sono 3 F in onda e più tardi anche Lara 007, Mumbi 008 per la consegna del primo bacio della mattinata. Baci in Tour. Fossi Marco su Radio Tour The Moving Station, noi siamo dei grandi appassionati di Sting, vero Fergal? Sono pure andato a vederlo a Benevento a Montisarchio, gran bel concerto. Sì, però non hai detto che sei arrivato in ritardo e stavi mangiando la pizza con una femmina, dilla tutta. Vabbè, comunque a parte questo, insomma, Sting sfiderà il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov. Anzi Gary, perché è russo. L'incontro dovrebbe tenersi il 29 giugno a New York e il 25% dei proventi pubblicitari sarà versato alla Rainforest Foundation, fondazione patrocinata dalla Rockstar. Oh, vedo anche qua Fabio che ci sarà uno schermo gigante che è a Times Square per consentire ai passanti di assistere all'incontro. Enrico, se ci avete un po' di insonnia a New York, basta scendere in buon piazza e subito addormentate. Che ascolteremo moltissimo questa estate, Dema J, Dance Floors, Radio 2, The Moving Station, ma tra poco ascolteremo un artista straordinario che a noi piace moltissimo e che pare piaccia moltissimo anche al pubblico considerato il numero di dischi che sta vendendo, che è Moby. E Fergal mi diceva una cosa molto curiosa rispetto all'album di Moby. Sì, è Natural Blues, è preso dall'album Play, e Play è l'album che Moby ha preso come Alan Lomax. Alan Lomax sarebbe un tipo che andava in giro per l'America raccogliendo vecchi pezzi dei artisti, e Moby ha preso questi vecchi pezzi, e infatti Natural Blues è un pezzo registrato negli anni 40 da un gruppo afroamericano in una chiesa, e Moby l'ha remixato, e ecco il bellissimo risultato, Natural Blues. Però noi pensavamo all'innovazione, si è inventato qualcosa, invece le canzoni contenute in Play sono canzoni che risalgono agli anni 40 a questo punto. Sì, bisogna tornare al vecchio successi per trovare la bellezza, e questo io credo così. C'è Moby su Radio Tour. Bel anno fa, ma adesso sta avendo il successo che merita, e qui numero 5 in Italia, questo è Moby dall'album Play e Natural Blues. Ma adesso sono le 10:27 minuti e siamo arrivati ad un momento molto importante della nostra mattinata insieme, infatti preparatevi ad emozionarvi perché c'è Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Baci in Tour. E allora vediamo se la nostra Lara 007 è in linea. Buongiorno Lara, ci sei? E quando mai no? Grazie, e allora fate emozionare le persone chiamate, fate consegnare all'Ara 007 una bella dedica in diretta sull'uscio di casa o sull'uscio dell'ufficio come è successo in questo caso. Prenotatevi immediatamente, ricordatevi che le consegne sono gratuite, il numero per prenotarsi è questo qua. È 081 790 1411. Baci in Tour, missione compiuta. Che tra l'altro c'è un bel notizia a proposito di lui, però per sapere che cos'è bisogna sentire Cham Cham Europe, uno di questi. quale pillola non lo sai, questa è la sorpresa, ascoltate tutti sempre Radio Tour, The Moving Station. Va bene, allora aspetteremo di sapere notizie che riguardano Fatboy Slim su Tam Tam Europe, ma adesso un consiglio per chi cerca lavoro. La sede Tecno Casa di Santa Anastasia a Napoli cerca giovani referenziati e militesenti residenti in zone limitrofe tra i 22 e i 29 anni. Investi in un lavoro sicuro e soddisfacente. 081 530 79 13. Tecno Casa ti garantisce un fisso mensile, provvigioni, possibilità di carriera e soprattutto formazione professionale. Fai un salto di qualità. 081 530 79 13 è un consiglio di Radio Tour The Moving Station. SPOT Spot. Oh, come preferite. Baba Sound su Radio 3 The Moving Station. Bellissimo questo titolo, che è una pecora. Baba Sound, che, tra l'altro 4 maggio è anche la data durante la quale si fanno gli sfratti, no? Esecutivi generalmente. Io non so, anche tu, Anna, hai avuto lo sfratto il 4 maggio? Beh, chiunque di noi prima o poi nella vita ne ha avuto almeno uno, e non solamente dalla casa. Allora, richiedeteci la vostra canzone preferita. Ricordiamo i numeri, Fergal. Il numero è 081 790 1411, perché siamo arrivati al momento di Just For You. E infatti vi regaleremo una bellissima canzone tra pochissimo. E adesso c'è Camilla con Non C'è Ragione. Non c'è ragione per l'amore. Dietro The Moving Station, vi ricordo che potete utilizzare anche il nostro GSM Box, i vostri pensieri in 160 caratteri. Il numero è lo 0348 2438 888. Chi c'hai da salutare tu? Io voglio mandare un saluto affettuoso alla mia carissima amica Imma. Ma pensate, 0348 2438 888. E adesso è tempo di Just For You. Per fare un gesto ho quasi distrutto un radiofonico. Dai con la richiesta. Allora adesso per Angela facciamo sentire The Time Is Now di Molokko. George Michael su Radio 2 The Moving Station. E adesso ti racconto qualcosa, Fabio, a proposito di Whitney Houston. Questo album, scusa, questo pezzo qua segna l'uscita di un album su un compilation di tutti i suoi grandi successi, e chiaramente uno penserebbe che lei andrebbe in giro a promuovere questo album, però le case discografiche infatti l'hanno vietato di andare a promuovere questo album, perché purtroppo la signora Houston, Whitney Houston, ha un sacco di problemi della droga e non si fidano di quello che farebbe. È vero anche questo. C'è da dire anche che comunque questo disco, oltre a questo inedito, tra virgolette, perché comunque è una cover cantata in coppia con George Michael, ci sono altre 3 canzoni che non erano mai state precedentemente contenute in altri vecchi dischi di Whitney Houston. Radio Tour, The Moving Station, la radio dei grandi eventi. Radio Tour, la radio dei grandi eventi, vi segnala il concerto dei 99 Post giovedì 8 giugno alle 21 presso il Parco Archeologico di Ponte Cagnano a Salerno. Radio Tour c'è. Direttamente da Libero, il Teoma Mucari Show giovedì 15 giugno alle 21 all'Arenile di Bagnoli di Napoli. Prevenditi abituali, info 081 761 1221. Radio Tour c'è. Il Napoli Junior Club presenta scuola e calcio in stadi aperti sabato 3 giugno alle 15:30 presso il Centro Paradiso di Soccavo a Napoli. Radio Tour c'è. Radio Tour, Radio Tour, la radio dei grandi eventi. Facile e semplice come prendere Candy da un bambino. Questo è Mandy Moore e Candy, e siamo arrivati quasi all'11, e infatti è il momento del Tour News con Michele Sabilla. Sì, è musica, questo è il nostro new hit su Radio Tour The Moving Station, questo è Baci in Tour. Attenzione a tutti gli studenti universitari, Radio Tour mette a disposizione un ciclo di preparazione per un esame a scelta. Basterà fornire al numero verde 800 32 20 20 la vostra motivazione. La più simpatica sarà premiata. 800 32 20 20. Radio Tour. Spinato su Radio Tour The Moving Station alle 11:13. Ma che noti, ma che pettegolezzo c'hai? Ma che roba di ma che vuoi dire in onda? Allora, è molto triste questo, perché so che qua in Italia i gatti neri portano un sacco di sfortuna. E la notizia non è buona, e peggiorerà ancora. Hanno fatto una ricerca a Brooklyn in New York, in ospedale, e hanno trovato che i gatti neri non portano soltanto la sfortuna, però è più probabile che portano l'allergia pure. Ah, se sì, tu c'hai un gatto chiaro, sì, è tranquillo. No, sei tu che c'hai il gatto nero a casa, io di gatti non ne ho ancora. Infatti, è perciò che io mi intossico sempre a starnutare, eccetera. Magari un po' di Domestos, un po' di detergente su questo gatto a farlo bianco e sarò a posto. 11:15, Fabio Fergal in onda per Baci in Tour. Adesso c'è Heather Small con Proud. Ask on Disco Down, su Radio 2 The Moving Station. Yeah, dice, I wanna disco down, I wanna boogie till the morning light, voglio ballare fino alla luce di mattina. E se la facesse così, nostra bella Lara 007, come consegnerebbe i baci in tour? La Maria prende il ginseng al mattino, sai, passa da casa mia, facciamo colazione insieme e poi va via a consegnare i baci. Oh, wow, vengo anch'io domani, vai, appuntamento domattina. Tutti quanti a casa mia, latte, cornflakes e ginseng, vabbè. Può anche fare un party mattutino, perché no? Sentiamo cosa ne pensa Lara 007, siamo infatti arrivati ad un momento molto importante, pronti per emozionarvi alla radio, siamo arrivati appunto al momento di Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Baci in Tour. Vediamo se la nostra Lara è in linea, pronto, ci sei? Dillo che dormo a casa tua. Non dire che vengo solo a fare colazione. Ecco, altrimenti mi arrabbio. Stiamo scherzando. Forse, non si sa. Allora, siamo pronti per consegnare un altro battle tour. Ci troviamo a Cercola, vicino Napoli, e siamo in compagnia di Nando. Grazie, prenotatevi subito per la consegna del bacio in diretta sull'uscio di casa. Fate battere il cuore delle persone chiamate. Ricordatevi che le consegne sono assolutamente gratuite. Basta chiamare. Il numero di chiamarci è allo 081 790 14 11. Baci intorno, missione compiuta. Stop the rock! Oh, don't stop the rock! Apollo 440! Vabbè, 0348 24 38 888 è il numero del nostro GSM Box. Leggiamo qualche messaggio, Fergo. Allora, Alfonso vuole salutare a Rosa. Ciao, Rosa. Francesca invece è una ragazza che ho incontrato in un negozio qualche giorno fa. Abbiamo fatto shopping insieme. Lei a un certo punto ha detto: ma tu sei Fabio Brescia? Io ho detto: sì, sono io. E a quel punto ci siamo comprati tutto il negozio insieme, decidendo insieme. Cioè, lei misurava le cose, io misuravo le mie. Insomma, lei è molto stressata perché si è a dieta. Però, vabbè, insomma, periodo delle diete. Poi speriamo bene. C'è il sole, Francesco. Coraggio. Comunque, poi Gennaro se la gode. E che vuol dire se la gode? Non lo so, non ho letto bene, ma insomma se la starà godendo in qualche modo. Salvatore invece vuole festeggiare i suoi 4 mesi di fidanzamento con Marcella. Auguri! E salutiamo anche Marinella che ci ha inviato una email. Lucio, anche lui e Mary. Risponderemo personalmente a tutti quanti. Vi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica. Il mio è fabio@radiotour.it. E il mio è fergal@radiotour.it. S-P-O-T. Spot. Space Gym The Fitness. Pure ho fatto colazione, giuro, con caffè americano e latte, cioè. E ginseng? Anche, beh, quello, ma insomma in pilloline. Ma io leggevo sul Corriere della Sera, in prima pagina, oggi il Corriere della Sera titola: Marcia gay, Rutelli ritira il sostegno. Al di là di tutte le considerazioni di merito che si possono fare su questo argomento, cioè Rutelli si è bevuto il cervello pure lui, però a parte questo io ho letto, pensami, Messi Gray Rutelli ritira il sostegno e riflettevo, dicevo, ma è una notizia da prima pagina il fatto che Rutelli ritira il sostegno ad un concerto di Messi Gray. Vabbè. E quindi praticamente un Rutelli non è un piccolo porcello. 22 minuti alle mezzogiorno e adesso siete pronti per richiedere la vostra canzone preferita? Io direi che dovreste farlo subito. 081 790 14 11, oppure il numero del GSM Box. Yes, ecco, siamo arrivati al momento di Just For You, dedicati a un canzone che volete sentire per voi o per qualcuno che tenete cari a voi. Editore The Moving Station, quante volte ti hanno dedicato questa canzone, Fergal? Tu che hai la fama, sì, voglio dire. Guarda, io ho parlato più di una ragazza e poi adesso che mi devo purtroppo dividere i complimenti delle nostre ascoltatrici femmine con te. Prima erano tutti per me, allora, adesso invece li devo dividere con te e molti dicono: ma sto irlandese qua come inconquistabile. Ma io vi spiego subito come conquistarmi. Portami una buona pizzetta, una buona parmigiana, non lo so, qualcosa di mangiare, perché la mia pancia è quello che dette a me come comportarmi. Cioè, fate l'abbonamento al satellite e guardate Gambero Rosso come il nostro buon Michele Sibilla, imparate a fare le ricette, invitate Fergal alla cena e sarete sicure di conquistarlo, senza ombra di dubbio sarà così. A suonare su Radio 2 The Moving Station, The Artful Dodger and Moving Too Fast. Siamo su Radio 2 The Moving Station. Questa è la tua canzone preferita, vero? Adesso so che è arrivata l'estate. Grande Alexia. Se Alexia non fosse uscita con questo disco saremmo sempre stati in dubbio. Ma siamo in autunno ancora. Ma questo spiega perché in Irlanda non arriva mai l'estate. Perché Alexia, anche se è grande in tutta Europa, non è ancora arrivata sulla nostra isola. Però potresti farti promotore della sua musica nel tuo paese. Bello, un modo di fare due spiccioli, vai. Sfruttiamo questo, Alexia, vai. 8 minuti a mezzogiorno su Radio 2 The Moving Station. Radio Tour in Tour con la sede CEPU di via Medina 17 a Napoli, martedì 30 maggio dalle 16 con Antonio Ciotola in piazza Vanvitelli a Caserta e sabato 3 giugno dalle 16 con Fabio Brescia nella villa comunale del lungomare Garibaldi a Castellammare di Stabia a Napoli. Animazione, musica, gadgets e la nostra Moving Station. I nostri programmi in tour ogni sabato dalle 10 alle 17, Salsa e Merenda, Beauty Tour e la Top 4 in diretta da Lido Varcadoro, uscita tangenziale Varcaturo a Napoli. Radio Tour in Tour. Chiama 081 790 14 11. Dipende, scritto da Giovanotti. Allora, chi è questo uomo accanto a me? Non lo so, dipende di che ore sono. Yes, siamo quasi arrivati a mezzogiorno, quindi è Michele Sibille con Tour News. Radio Tour, the moving station, che fa anche Remation. That's true. Oh, sei un poeta, bravo. Eccoci qua, we are on Baci in Tour with Fergal and Fabio. Ecco, stavo per dire Farbio and Forbu. Che poteva essere una bella commissione dei nostri due nomi. C'è Fiore del Mattino in regia, da quell'altra parte del vetro. Questi li passi spesso su TamTam Europe, i Savage Garden? Ogni tanto i Savage Garden ne parliamo. Infatti loro sono coinvolte in una causa adesso. Però per capire di più bisogna sentire TamTam Europe di pomeriggio. Tra poco invece la consegna dell'ultimo bacio del mattino, intorno a mezzogiorno e 20. Radio Tour. Rishas con Cuba e il loro nuovo singolo, bellissima canzone. Oh, cos'è? Fabio, spegni questo sigaro. Guarda, il problema è qua. Sì, si chiama Cuba, ma non siamo a Cuba qua. Oh, damn, io non fumo neanche le sigarette, ma figurati il sigaro adesso, ma pensa te. Vabbè, leggiamo qualche messaggio giunto al nostro GSM Box 0348 24 38 888. Allora, Antonio sta studiando per un esame, in bocca al lupo, Antonio. Mao vuole sapere perché non passiamo così spesso il nuovo singolo di Carmen Consoli, che è un power, il che vuol dire che va in onda ogni tre ore, di più non è consentito dalle leggi radiofoniche, Mao. E poi Carmen Consoli è a Neapolis, quindi e vai, come? Mao, divertiti. E poi Anna, saluti ad Anna, grazie del messaggio, Anna. C'è qualcun altro che scrive: sei la mia schiavitù, sei la mia libertà, sei la mia carne che brucia come la nuda carne delle notti d'estate. Una poesia di Hikmet per Tur poetessa a maledetta. Pensate. Ah, wow, bellissima questa. Incredibile, ma vero. Complimenti. Complimenti per la scelta. Noi ti regaliamo questa bellissima canzone di Rhapsody su Radio 2, The Moving Station. C'è A Child is Born. Potere della pubblicità, incredibile ma vero, guarda. Ma questo mi piace moltissimo perché stanno prendendo in giro James Brown, il vecchio Get Up, e sto dicendo Get Up. Sex Machine, Tony Sweat su Radio 2 The Moving Station, 12:21 minuti. Siamo arrivati al momento di Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Baci in Tour. Vediamo se la nostra Lara 000007 è in linea. Ci sei? Sì, ma tanto ci sono o non ci sono. Non cambia proprio nulla, vero Fabio? Vero, Fergal? Non è affatto vero, non è affatto vero. Siamo molto attenti a quello che dici, moltissimo. Sì, sì, domani ci credo, forse, chissà. Allora, potete riprendermi, ho finito. Ci sentiamo intorno alle 15:20 per altri Baci in Tour. Ciao! Giuro che ti faccio un riassunto di tutto quello che hai detto dopo. Voi nel frattempo invece prenotate il vostro bacio consegnato in diretta sull'uscio di casa. Ricordatevi che è bellissimo far emozionare le persone chiamate in diretta radiofonica e che le consegne di Lara 007 sono gratis. Basta chiamarci al numero 081 1414 11. Baci in Tour, missione compiuta. Love Me Course su Radio 2 The Moving Station. Musica irlandese, hai scelto bene? No, ho scelto affatto, io ho scelto Alessandra. Vabbè, ma a parte questo c'è la edizione inglese? Sì, yes, di GQ. Che fa una bella classifica. Copertina è Britney Spears. Britney è una bella ragazza, però sì, su questa copertina, mamma mia, è proprio. Piace molto la copertina di questo giornale, pure a me. Però, insomma, a parte quello, ci sono 50 dischi che bisogna assolutamente avere nella propria discoteca, a casa propria, per una serie di motivi. Per esempio, che ne so, il miglior disco della domenica sera è My Love Is Your Love di Whitney Houston. Aiuta a dormire dopo una fine settimana lungo. Il miglior disco per cucinare e il pranzo e TLC con Crazy Sexy Cool, per chissà esempio. Che salsa combineresti lì. Non lo so. C'è poi il miglior disco per il proprio funerale, che è The Very Best of Dean Martin. Allora, quando sei al funerale cantate tutti quanti That's Amore. Se fate una festa a casa vostra, il miglior disco è The Miserication of Lauryn Hill. Poi cosa c'era che tu avevi? Ah, c'era bellissimo questo, perché il miglior disco per guidare di notte è Blue Lines dei Massive Attack. Sono d'accordo. Se devi guidare di mattina presto, ci sono i Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Pensi a quanto incidente faresti con quel chitarra elettrico. Wow. Sono 49, insomma, è una classifica molto divertente. Piccola pausa, poi Bob Marley. Che continuano a invadere la nostra scaletta, non se ne può più. Eh sì, però è una cosa molto positiva, si fa un po' di soldi per l'irlandese. Ecco, senti questo. Tipico? Sì, sì, questo è il tradizionale, che hanno mixato con questa nuova musica degli anni 90, C'est la vie. E queste qua sono le Bewitched su Radio 2, The Moving Station. Ladies and gentlemen, regali per voi. Il più veloce al nostro numero verde 800-107-500 è stato Bruno. Radio Tour ti premia con l'Heineken German Festival. Vediamo subito se c'è per te il biglietto, Bruno, per una delle tre date. Sentiamo il gingoletto. dispiace, niente da fare, peccato. Bruno, ma ti regaliamo un gadget Pendium e anche il cappellino dell'Heineken German Festival di 16, 17 e 18 giugno all'autodromo di Imola con Guano Apes, Rage Against the Machine, Prozac Più, Morciba, Eurythmics, Oasis, Elisa, Subsonica e Calisti, che adesso ascoltiamo con Good Stuff. Area di servizio. Brian Adams, don't give up, non perdere il coraggio, Fabio, tra poco arriverà a pranzo, mamma mia che fame. Oggi orecchiette con la rucola, sono veramente ansioso di sentirne il sapore. Tra 10 minuti ci metto la bocca sopra. Adesso però ho 3 appuntamenti molto importanti da darvi. Prendete carta e penna, l'agenda e sentite qua cosa ho da dirvi. Radio Tour, The Moving Station, la radio dei grandi eventi. Radio Tour, la radio dei grandi eventi, vi segnala il concerto dei 99 Posse giovedì 8 giugno alle 21 presso il Parco Archeologico di Ponte Cagnano a Salerno. Radio Tour c'è. Direttamente da Libero, il Teoma Mucca di Show giovedì 15 giugno alle 21 all'Arenile di Bagnoli di Napoli. Prevenditi abituali, info 081 761 1221. Radio Tour c'è. Il Napoli Junior Club presenta scuola e calcio in stadi aperti sabato 3 giugno alle 15:30 presso il Centro Paradiso di Soccavo a Napoli. Radio Tour c'è. Radio Tour, Radio Tour, la radio dei grandi eventi. Protagonisti del Neapolis Rock Festival. Yes, di preciso giovedì 6 luglio. Si esibiranno insieme a Max Gazzè, Ziggy Marley, Junkie XC e tanti altri che insomma poi vi diciamo durante il corso. Saranno i tre allegri ragazzi morti. Che bel nome per un gruppo, eh? Incredibile ma vero. Vabbè, manca poco a luna. Bacin Tour, un programma in collaborazione con le camerette a Canfora, arredamento specializzato per ragazzi che trovate anche sulle pagine gialle, sulle pagine utili. Termina qua, ma torna oggi pomeriggio alle 15 con Jackie. Io sarò ancora con voi tra le 14 e le 15 per aspettare Bacin Tour. Ringrazio il Fiore del Mattino che ha curato la regia. Io ci vi faccio sentire un bel pelo del rock alle 17:10 e sarò in diretto con Fabio di nuovo venerdì mattina. Vi ringrazio. Ciao. Grazie a Fergal, ciao a tutti. Le camerette a